Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni sforzo 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Siamo gli unici reduci dal Vietnam. Io eravamo nel delta del Mekong quando arrivavano i Viet Cong che ci sparavano, eravamo io, Daniele Bonere e Cacà, quindi diciamo, non eravamo proprio come John Rambo, ma insomma. Occhio cross di Pirsa, pallone dentro, Cacà! Riccardo Cacà! Ancora Cacà che prende per mano il Milan 1-0. Eccolo il cross di Walter Pirsa. Nocerino ha penetrato! Zapata! E stavolta il gol è suo, è tutto suo. All'andata glielo avevano tolto. Pallone importante questo per Balotelli. Balotelli, Balotelli può calciare col destro e torna al gol Mario Balotelli. Allora, il pronostico della Champions dice il Napoli pareggia a Dortmund, facciamo 1-1, e invece il Milan perde 2-1 a Glasgow. E io vi caccio via tutte e due, Franco Piantanida e Roberto Scaltritti. Da domani non ci siete più. Fired. Tanto c'è uno che mi scrive: buongiorno signor Genta, se le chiedono oggi un pronostico su Juventus Copenaghen, dica che la Juve perde 2-0. La ringrazio Enrico. Enrico, la Juventus stasera vince 3-0, e lo dico subito, registrate, poi domani lo mandate, Caronia. No, 800-24-0024, numero verde. Allora, ieri la colonna sonora l'aveva scelta Gagliani, Let It Be, con ovvia assonanza, no? Mi pare. Oggi lasciamo fare invece in contumacia, sta viaggiando di ritorno dalla Scozia, al collega Paolo Condò sulla Gazzetta dello Sport, grande amico, che comincia il suo servizio da Glasgow con il titolo di questa canzone, This Is The Beginning. Io non sono d'accordo, per me sarebbe stato meglio uno Still Alive qualunque, una delle tante versioni, Ancora Vivi, non mi pare che possa essere questo un inizio per il Milan, certamente qualcosa di inatteso, ma siamo portati in Europa a sopravvalutare anche il valore degli avversari, perché mi sembra veramente penoso il livello del Celtic. Però detto questo, non mi aspettavo questa vittoria per il Milan. Calcio bellissimo così, molto pop così, direbbe il mio amico Pierluigi Pardo. Milan va in Scozia, non in montagna, in Scozia a respirare, almeno in Champions, contando sulla voglia strepitosa di Kakà, su cui magari mi sono anche sbagliato. Io voglio vederlo sul medio periodo, Riccardino, che in questo momento è in condizioni fisiche meravigliose. Milan gioca sulla rabbia stavolta positiva di Balotelli, dopo tante storie, tante chiacchiere, sulle scelte corrette di Allegri anche. Non è più tanto vivo sportivamente parlando invece il Napoli. Pierluigi Pardo da Dortmund, ciao. Ragazzi, Napoli, come andiamo? Quante birre hai bevuto? No, nessuna. Neanche una? Peggio per te. Digiuno, sì. Lavoro, digiuno. Una Cayenne, il delta del Mekong, come diceva prima Gagliani. Il lavoro più bello del mondo. Ieri sera non ho resistito, ho fatto un tweet con una foto dello stadio. Il lavoro più bello del mondo, dopo il calciatore ovviamente, forse la rockstar. Sì. Insomma, però veramente stupendo. Stadio bellissimo, grande atmosfera, peccato per il Napoli. Io sinceramente penso che sia stata una grande occasione persa. Non sono d'accordo con Benitez per una volta, perché secondo me Napoli poteva e doveva giocarsela meglio. Sì. Ma ha dei limiti, mi pare, questa squadra. I risultati nelle partite di grande livello sembrano confermare questi limiti. Tanti gol presi, pochi segnati, nessun punto portato a casa, sia campionato che coppa. Poi è chiaro che è un girone così, no? Rischi di stare a casa con 12 punti, mentre la Juve che gioca stasera rischia il girone, è terribile. però il girone è in qualche modo frutto del ranking, quindi dobbiamo tenerlo in considerazione, insomma. Napoli ha dei limiti. Credo che Napoli ha dei limiti, però, no? Mi pare. Sì, dietro secondo me la situazione è imbarazzante. E ieri, secondo me, dove mi è veramente dispiaciuto, mi sembra che Napoli l'abbia buttata via, è stata proprio della mancanza di personalità in certi momenti. Ora è ovvio che il gol al decimo minuto, il calcio di rigore, sul quale possiamo discutere, mi fanno molto ridere le prime pagine dei giornali, dico la verità, perché spesso tu vedi che lo stesso giornale in un'edizione titola in un certo modo e parla di scandalo, in un altro parla di situazione un pochino più tranquilla. In questo caso ci sta, no, il un po' di confusione, perché esattamente come con Chiellini, Real Madrid, Juve, questa è la classica trattenuta che c'è, non si può dire che non ci sia stata la trattenuta. È anche vero che nella prassi del calcio italiano questo tipo di situazioni non vengono spesso sanzionate, e quello ha cambiato la partita, quindi quello è un alibi sicuro, perché ha consentito al Dortmund di poter sfruttare la sua qualità migliore, che è il contropiede, e ha tolto il vantaggio del Napoli di poter giocare con due risultati su tre. Detto questo, però, non mi è sembrato una squadra intelligente in tanti momenti, sì. lo dico proprio sinceramente. Intelligente o ancora matura, forse? Sì, matura, perché dai, posso fare un giudizio di valore, però insomma non è riuscita a gestire con maturità la partita. Anche alla fine, per esempio, insomma, io l'ho raccontato forse anche rompendo le scatole degli spettatori in diretta più volte, perdere 3-1 o 4-1 era assolutamente identico. Era uguale perché per un calcolo complicato di classifica avuta sempre 3-0 quando dovevi vincere con l'Arsenal, mentre il 3-2 avrebbe creato la possibilità di vincere 2-0 con l'Arsenal e di avere lo scontro diretto favorevole col Dortmund in caso di pareggio del Dortmund a Marsiglia, questa foga è mancata, quindi cioè è mancata anche questa lettura della partita, questa lucidità nel leggere la partita. Pier 800 24 00 24, numero verde, un sacco di bei messaggi. Come chi scrive, se voglio, chi scrive: il soldato Kakà da generale ha condotto il Milan a una vittoria per niente scontata. Lo vuole ancora la gigantografia di quando faceva pubblicità per la Ringo? No, mi piace di più la gigantografia di Kakà in maglietta e calzoncini. Io sono il più felice del mondo nel vedere giocare un campione come Kakà a questi livelli. Poi ieri, dai, siamo onesti, ha segnato un gol che in Serie A te lo scordi, cioè, da centro area di testa senza neanche alzarsi da terra intorno a 5 scozzesi che lo guardavano. Detto questo, ha giocato una grandissima partita da condottiero, è vero, da Kakà, voglio vedere e prego tutte le sere perché regga a questi livelli, perché è bello vedere giocare un giocatore così. Traffico in tedesco come si dice? Traffic. Ma poi questa sera ho provato una cosa. Questa sera ho provato una cosa nuova, le calze rosso nere. Attenzione, che c'è un dettaglio fantastico. Ho provato una roba mai provata, mi sono andato a comprare nei giorni scorsi le calze rosso nere e ha portato buono, quindi le ho tentate tutte. Non so se piaceranno in famiglia, perché sono un po' troppo usate. Fa niente, l'importante è che fa niente, però l'importante è che vinca il Milan, il resto è l'ultima cosa che volevo sapere. Questa è la scelta Piantanida. Comunque, Pardo, traffico si dice Ferker. Pierluigi, ti licenzio. Capito? Vabbè, ma adesso questo Mughini me lo porterò avanti tutta la stagione. Va bene, lo salutiamo, c'è Piero che spesso ci ascolta. No, Galliani ha curato ogni dettaglio. Danco i calzettoni, questo sì. Devo dire mi fa quasi tenerezza. Dai. Per Galliani ho detto una sciocchezza. Tenerezza non è una parola che non si addice a Galliani. Aldo Serena. Eccolo qui. Ciao Aldo. Buona giornata, buongiorno a tutti. Abbiamo scoperto come stai al dito 11, su Twitter lo potete seguire, al dito 11. C'è Travanti Rock della storia del calcio, personaggio leggendario, appassionato di Springsteen, di Pearl Jam. Ma di che stiamo a parlare? Lo so, apposta che lo seguo con attenzione, Aldo Serena. Eddie Vedder la voce più bella del rock, no Aldo, siamo d'accordo? Sì. Invece la voce più bella di questo Milan rimane quella di Riccardino. Sì, ieri sera ha cantato bene. Sì, anche se gli scozzesi mi sembravano veramente una banda del paese. Questo sì, non voglio togliere niente al Milan, però è una banda del paese calcisticamente parlando. Sì, grande volontà, ma sotto il filo tattico proprio poco, si sono allungati tanto soprattutto nella prima fase. E il Milan ha giocato molto bene sfruttando queste manchevolezze tattiche, e devo dire che intanto si è trovata una squadra, però, perché il Milan ha giocato ieri sera con spirito di sacrificio, con molto soccorso da parte di tutti, con anche sagacia tattica, perché si chiudevano e ripartivano. Tra l'altro nel tempo ha fatto una partita stupenda. Sì, sono d'accordo, soprattutto ripeto sul piano di una intensità fisica. L'ho visto di nuovo sprintare in verticale, palla al piede come faceva nei giorni belli. Sul Napoli, che Pardo ha raccontato, invece quale impressione hai tirato? Beh, io devo dire che facevo zapping e quindi le ho seguite tutte e due, e quindi non bene tutte e due, ma il Napoli mi passa anche una partita un po', non dico sfortunata, ma è un Napoli che contro questo Borussia Dortmund forse poteva anche giocarsela meglio, perché i tedeschi secondo me non sono al top della condizione, hanno anche delle defezioni difensive, quindi poteva starci anche l'impresa, non c'è stata ed è un peccato. Per Luigi, la critica maggiore che vuoi muovere al Napoli invece è quella che insomma hai sottolineato prima, cioè la poca lucidità, la poca personalità a questo livello? Allora, dal punto di vista delle parti non c'è dubbio che il reparto peggiore del Napoli sia la difesa. Ieri abbiamo visto disastri assortiti, Arnero veramente imbarazzante, mi spiace dirlo, insomma. Adesso arriva Reveiller, che non cambierà la vita del Napoli, ma no, non serve. Non la cambia. Io credo che dietro ci sia stata forse un po' di sopravvalutazione di Albiol, che è un buon giocatore, che però è un eterno, negli ultimi anni è stato un eterno comprimario, nel senso che un giocatore che ha giocato poco per ovvi motivi, perché era in un grandissimo club come Real Madrid e in una grandissima nazionale come quella spagnola, quindi non è che fosse colpa sua, per carità. Però quest'anno che lo vediamo invece in una prova ben impegnativa, che è quella di voler fare il leader del reparto difensivo, anche lui fatica, e stiamo parlando sicuramente del meno peggio, perché poi Britos e Fernandez fino a quest'anno hanno fatto peggio di lui. Maggio molto frenato ieri, e sicuramente l'assenza di Zuniga, del miglior Zuniga, si è sentita, quindi sì. Insomma, mi sembra che dietro ma poi lo sanno anche il Napoli, tanto è vero che De Laurentiis già ha detto che a gennaio farà delle operazioni e saranno in quel reparto lì. Poi forse serve un pochino più di qualità in mezzo, ma per il resto, cioè, ieri sinceramente si è visto. Stiamo parlando dei vice campioni d'Europa, ecco, no? Perché poi magari uno si scorda, sì, questa cosa. Stiamo parlando dei vice campioni d'Europa, ma non in un bel momento. Li ho visti col Bayern di Monaco con un'emergenza difensiva mostruosa, sì. Però tu vedi Mkhitaryan, ieri giocavano 4-2-3-1 da una parte e dall'altra. Con tutto rispetto per Pante, perché è un buonissimo giocatore e che secondo me non è neanche tra i peggiori ieri, però tu vedi Mkhitaryan, vedi Royce, vedi che partita ha fatto Gross-Kreutz e che partita ha fatto Błaszczykowski. Lewandowski è stato giocatore abbastanza normale, lì c'è la scienza del contropiede, insomma. Peccato, veramente peccato. E poi ripeto, il 2-1 non era un risultato così da buttare, perché comunque 2-0 con l'Arsenal ci vuole un'impresa, ma ce la puoi anche fare. Ma la puoi fare 3-0 con l'Arsenal, io sinceramente non lo vedo, lì siamo nel campo dell'occulto, del miracoloso. Bisogna crederci, sarà una grande notte, sarà un grande San Paolo, sarà bello esserci. Sì, bisogna anche credere a Babbo Natale, perché è bello, però realisticamente dai. Negli ultimi mesi che non esiste Babbo Natale. Non è vero, esiste come? No, esiste, Babbo Natale esiste e sta zitto, perché esiste. Esistono i genitori che mandano le vostre letterine a Babbo Natale, che ogni anno si presentano, magari c'è come fascia protetta, e quindi assolutamente esiste Babbo Natale, è ufficiale, anzi Babbo Natale esiste. Il 3-0 del Napoli sull'Arsenal, no. Aldo Serena invece, ti leggo qualche, a me mandano solo insulti, a te dei complimenti, questa non mi piace, ma comunque grande Aldo, ancora mi ricordo il gol sotto la maratona nel derby con la Juve all'ultimo minuto, grazie Roberto, grazie datato di molti anni. Fatti, buona memoria. Ce lo ricordiamo tutti, è stato un gol storico quello, direi. Uno dei tuoi preferiti? Beh, ecco, fra quelli più importanti, perché quando fai gol al derby e lo fai magari anche in un momento così conclusivo della gara, è sempre una cosa che è così forte, di emozioni forti. Fate i complimenti a Serena, perché lo ritengo uno dei migliori, se non il migliore commentatore tecnico in televisione. Allora, commentami, Aldo Serena, la partita di Balotelli. A proposito, Boban ha smentito quelle parole molto dure che erano state a lui attribuite, non le avrebbe mai pronunciate, ieri le ho lette, oggi non le ho più qui, però quando ha detto, insomma, poteva solo giusto portare la borsa ai grandi campioni che giocavano con me, da Shevchenko a Weah, a Van Basten ovviamente. La partita di ieri del numero 45. Si è controllato, ha avuto anche delle provocazioni da parte dei difensori del Celtic, ma lui è riuscito anche a non cadere in quelle provocazioni. Era frenato abbastanza, la corsa era però più fluida delle settimane scorse, era più centrato, ecco, era più in partita. Deve, secondo me, mantenere quell'esuberanza, quella forza e quell'estero, però controllandosi. Non deve però eliminarlo molto, non deve essere troppo controllato. Secondo me era fin troppo controllato, quindi deve trovare la misura giusta, non eccedere. E non è semplice fare un equilibrio, mi rendo conto, ma lui che ha qualità immense, se ce la fa, poi può anche far qualcosa di importante in mondiale. Sì, a me sembra che abbia un po' di paura. Magari uso una parola che può sembrare blasfema, riferita a Balotelli, però mi sembra un giocatore abbastanza impaurito, al di là di quei comportamenti qualche volta stupidi, qualche volta esagerati, qualche volta cattivi. Mi sembra un giocatore che ha paura. Sì, mi sembra che quando sia solo contro tutti, allora ha quella forza e mi sembra invincibile, poi eccede perché non riesce appunto a controllare. Invece quando va con la razione, con la razionalità, ecco, perde un po' quella forza, quell'estro, quella fiducia in se stesso che ha in alcuni momenti. Quindi deve trovare l'equilibrio. No? Secondo me è un giocatore che se ci riesce diventerà straordinario. Grazie Aldo, a presto. Ciao Aldone. Ma io purtroppo non sono tecnologico e non amo molto i social network. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Tanto che mi ricordo, convoco tutti, ma soprattutto tutte le signore e signorine all'ascolto, venerdì, fiera degli agenti, fiera di Milano, c'è questo forum degli agenti e tutti convocati in diretta da lì. Io ci sarò, pardo no, peggio per lui. No, vediamo, magari te stai da un'altra parte, quindi io ci sono e quindi convoco chi mi pare. Poi ti mando le foto, poi Piantanida ti mandi Twitter. Da dove ripartiamo? Ripartiamo da Francesco da Milano, al quale adesso faccio fare i pronostici, perché io mi sono rotto le scatole di farli, di sbagliarli e poi di prendere anche le botte sulle orecchie. Perché ho letto su Twitter che avevi detto che Milan perdeva? Ha detto che Milan perdeva, che mi sembrava una bestialità. E avevo dato, mi sembra, 2-2 a Napoli, a Dortmund, ma Napoli poteva farcela, l'hai vista e commentata tu e me l'hai appena spiegato. Facciamo Juve-Copenhagen stasera. Juve-Copenhagen, ma anche Real Galatasaray. Quanto? Juve-Copenhagen 3-0, Real Galatasaray 3-1. Juve-Copenhagen 3-0 l'ho appena detto anch'io. Francesco da Milano? Beh, la Juve vince. Quanto? 2-1, penso. Mentre il Real cosa fa col Galatasaray? Lì se la giocano. Io penso un pareggio. Un pareggio, ma tanto poi la Juventus, pur vincendo, deve andare a fare il risultato in Turchia l'ultima giornata. Potrebbe passare con 7 punti e il Napoli rimanere fuori con 12. Questa è una cosa che brucia. Bizzarra, Dica Francesco. Io volevo dire una cosa. Devo dire che sono un vostro ammiratore, la vostra trasmissione è quasi mai banale. Lo è stata qualche minuto fa nel commento alla partita del Napoli. Mi è sembrato di capire che voi auspicaste che si fosse giocata probabilmente con i due terzini, con le due ali sulla linea dei terzini e con i 400 campisti bloccati dietro. Mi sembra un passo indietro, sinceramente. E sono felice che Napoli non l'abbia fatto nei suoi limiti, con i suoi limiti evidentissimi, però se penso che Benitez abbia ragione, se si vuole crescere si deve far questo. Sì. No, qui risponde Pardo che era lì ed è giusto che lo faccia lui. Allora, sincer- sinceramente io ieri prima della partita mi aspettavo un mediano in più, mi aspettavo Cemail, Hiller e Berami in campo al primo minuto, pensavo che visto il fatto che il Napoli aveva due risultati, la forza dell'avversario e l'infortunio di Hamsik, che quella fosse la soluzione. Quando invece si è saputo che si giocava comunque con Pandev, in realtà ero contento, nel senso che mi sembrava sicuramente un fatto di personalità, e su questo sono d'accordo con l'ascoltatore, però poi insomma non è soltanto un fatto di moduli, cioè ieri dal punto di vista dei moduli le due squadre hanno giocato nello stesso modo, hanno giocato su 2-4-2-3-1, è l'interpretazione dei moduli che lascia a desiderare. Ripeto, secondo me il problema grosso del Napoli è dietro, cioè non c'è una sufficienza secondo me dietro ieri, e quindi poi alla fine questo in qualche modo incide sulla partita, perché l'errore, il gol del 3-1 è un gol assolutamente banale che il Napoli quasi si fa da solo, quantomeno armando il contropiede fortissimo del Borussia Dortmund. Senti, in un momento in cui la partita stava cambiando, siamo sempre allo stesso discorso, però Pier, non è che un modulo di questo tipo metta troppo sotto stress la difesa? Ma non lo so se la mette sotto stress, sicuramente un interditore in più può essere utile, soprattutto poi tornando al discorso, al paragone tra Mkhitaryan e Pandev, ripeto, non è accanimento nei confronti di Pandev, io ieri mi aspettavo molto di più da Kayekon, per esempio. Sì. Secondo me tatticamente quella era una zona con Durm, che è un ragazzino, quella era una zona nella quale bisognava fare la differenza, e so da quello che ci diceva Francesca Benvenuti a Portocampo che non è piaciuto neanche a Benitez, cioè Benitez voleva molta più intraprendenza da parte di Kayekon. Chiaramente non è che possiamo colpevolizzare Kayekon, che è stato uno dei migliori, però insomma ieri è mancata personalità secondo me ovunque, è mancata prestazione. Sì. Cioè alla fine se guardiamo le prestazioni in campo dei giocatori del Dortmund e del Napoli sono molto diverse. Sì, certamente. Ci può stare, quando vince campione d'Europa giochi in casa loro, è uno stadio difficile, non sei in un momento brillante, perché il Napoli non lo è, e la sommatoria è stata la partita di ieri sera, in cui esci comunque con dei rimpianti, perché hai ragione, di meglio si poteva fare. C'è chi scrive: attenzione, stasera a Torino nevica e quelli di Copenaghen si troveranno a loro agio, ma secondo me se la Juventus gioca, neanche se nevica rosso e sbarcano i marziani, mia impressione. E anche se poi no, sì. Ma questo io penso che finirà 3-0. Detto questo, attenzione, perché come diceva giustamente Buffon l'altro giorno, alla fine Copenaghen ha 4 punti. Sì, è la partita dell'andata, me la ricordo benissimo. Ma è un'altra Juventus, Pierluigi. È un'altra Juventus. Dai. In quella partita la differenza tecnica fra le due squadre è stata enorme, quindi io penso che non ci sia discussione. Però questi discorsi li possiamo fare noi, io sono sicuro che Conte e i giocatori ne fanno con un gran rispetto, perché a parte un rispetto che gli dà la classifica, ma perché è il modo migliore per evitare sorprese. A Fabrizio da Ancona facciamo invece fare pronostico di altre due partite. Brizio? Sì, sì. Manchester City, Vittoria Pilsen. È un 1 secco, goleada. Uno secco di goleada col City che ha appena messo in enorme difficoltà Villas Boas, sculacciandolo 6-0 al Tottenham. Via Villas Boas, via Baldini, via tutti. Farvi un complimento, siete una coppia irresistibile. Coppia lei irresistibile. Genta, come ha fatto fino adesso a vivere all'ombra di Garanzini, non lo capisco, sarà uno dei ma segreti. A me piace stare nei boschi. È una bella coppia. Parlo pure con quel nome della trasmissione, tutte le trasmissioni con nomi banali, lui col palleggio del Barcellona fa una trasmissione stupenda, piena di gnocchi ogni lunedì. Una roba, siete una coppia. Violino a scena aperta. Sì, salutami. Siete una coppia da e anche lo zio salutami. Senti Fabrizio, non te la cavi solo con Manchester City Vittoria Pilsen, ma anche con CSKA o Zesca, per dirla alla baschettara, Bayern Monaco dovrebbe vincere. Però io volevo notare una cosa che voi non avete parlato oggi. Ieri ho visto il Barcellona con l'Ajax. Sì. Ha messo in campo, al di là degli infortuni, una formazione ridicola. Cioè, mancano due partite alla fine dei gironi di Champions, tutte le squadre che sono quasi qualificate devono dare un'impressione anche di correttezza. Non vorrei che stasera il Real, col fatto che si diciamo va a cavallo dell'infortunio di Ronaldo, mettesse in campo una formazione diciamo per perdere in casa con Galatasaray, perché voglio dire, io ho visto il Barcellona ieri sera, l'Ajax è una squadra normale, cioè, l'Ajax doveva vincere goleada ieri sera, il Barcellona non era... Cioè, ha capito qual è il problema della Champions? Sì. Il problema è che io posso capire, tu vuoi far riposare tre giocatori, ok, manca una giornata alla fine mi sta bene, però vedo già formazioni di squadre qualificate. E allora se la Juventus stasera vincesse, poi il Real... Ma guardi, a guardare la formazione del Real Madrid dovrebbe essere Casillas, Carvajal, Pepe, Sergio Ramos, Arbeloa, Casemiro, Iliaramendi, Isco alle spalle di Bale, Benzema, Di Maria, non mi sembra malissimo. No, non è male, poi si gioca a Madrid, eh. Io credo che questa differenza... Si sente, non puoi permetterti di fare... Non ha ragione, cioè ci sono delle volte delle situazioni in cui si stacca la spina. Un conto è farlo in casa, un conto è farlo fuori. E poi c'è anche il fatto che Real Madrid comunque ha ancora qualcosa da farsi perdonare con i propri tifosi. Quindi, soprattutto perché gioca in casa, io non credo che farà grandi gare, penso che vincerà stasera. Però vediamo, sicuramente ha ragione, nel senso che poi... Chi si porta avanti nel girone si regala questo piccolo privilegio. No, ma io sono anche dell'idea che se tu puoi far fuori, hai la possibilità di far fuori anche in maniera indiretta una diretta concorrente, devi provare a farlo. Ad esempio Mourinho ieri ha fatto sta figuraccia a Basilea, si porta dietro il Basilea probabilmente nel girone, magari riesce a far fuori lo Schalke che era più pericoloso, perché sono discorsi che le grandi squadre in prospettiva primavera possono anche fare in maniera anche, se vogliamo, perversa o poco sportiva, però sono discorsi che vengono fatti. Nel caso sarebbe veramente poco sportiva, perché vorrebbe dire perdere apposta, e quindi insomma certo, questo è evidente, diciamo quasi un'ipotesi da illecito. Però no, io credo sinceramente che questa cosa stasera non succederà. Penso che Real Madrid giocherà, mi aspetto una partita molto aperta col Galatasaray, una partita non scontata nel risultato. Anch'io sono dell'idea dell'ascoltatore di prima che dice non è così scontato che Real vinca. Davide, provincia di Imperia, si becca, attenzione, Anderlecht Benfica e Paris Saint Germain Olympiacos. Allora, Anderlecht Benfica vince il Benfica. Quanto? 2-1. E Ibra contro l'Olympiacos. Paris Saint Germain. Non c'è storia. Ne segna altri tre. Per me quest'anno io penso che arrivi nelle prime quattro, perché è veramente uno squadrone. Grande Paris Saint Germain. Io faccio un velato tifo per Ibrahimovic in questa Champions League. Anch'io. Ecco, grande. Anch'io. Bravissimo. Poi cosa vogliamo dire? Allora, per me volevo chiedervi, innanzitutto siete bravissimi, e volevo fare un saluto speciale a Pierluigi Pardo. Purtroppo le sue trasmissioni 11 e Tiki Taka me le fa sempre tardi e io vado a letto tardi, ma ne vale la pena. Devi parlare con Italia 1. Perché non le fai alle 8:30-9? No, il mio sogno è saldarmi con la TV del mattino, capito? Okay. Io vorrei proprio io fare volevo chiedervi. All night long. Io volevo chiedervi, parliamo che in Europa siamo un po' inferiori, però ieri il Napoli, come ha detto Pierluigi, ha buttato un'occasione al vento contro i vice campioni d'Europa. Io sono juventino e questa sera sono fiducioso, e poi a Istanbul succeda quello che succeda, comunque per questa sera sono molto fiducioso. Però volevo chiedervi, centrocampo della Juve, come lo posizionate nelle prime squadre d'Europa? Io penso che centrocampo come ha la Juve in questo momento in Europa non ce l'ha nessuno. Abbiamo la difesa della nazionale, che abbiamo un po' ballato all'inizio, però è la difesa della nazionale. Davanti Tevez, se parliamo di centrocampo, cosa pensate? Cosa manca a questa Juve? Io la reputo una grande squadra. Paio di top player, dice Pardo. Sul centrocampo sono d'accordissimo, e penso anche, adesso detto oggi sembra un'eresia, perché insomma la Juve non è ancora certa della qualificazione, in questo momento è quarta nel girone, questo lo ricordiamo per pura cronaca, sì. Però io penso che se la Juve passa il turno, come credo sia possibile, e arriva con questa intensità a febbraio-marzo, poi nella sfida 180 minuti se la gioca, sì. Ma sono d'accordo con te. L'anno scorso è uscita col Bayern, è vero, però è uscita col Bayern che poi ha massacrato peggio il Barcellona, quindi sicuramente il Bayern era di un altro pianeta, ma insomma la Juve secondo me l'anno scorso era fra le prime 4-5 squadre d'Europa. E quest'anno lo è ancora. Manca secondo me un top player in più, nel senso che l'hai visto benissimo nelle due partite con Real Madrid, la Juve ha giocato meglio, era in condizione migliore, era anche meglio allenata in questo momento, non me ne vorrà Carlo Ancelotti. Però poi alla fine il Real Madrid ha fatto 4 punti tra sì. Episodi all'andata e colpi di classe al ritorno. Avere Cristiano Ronaldo sì, però come organico, Pier, soprattutto a centrocampo, forse manca un top player difensivo, però quelli ce li hanno in pochi. Sul piano strettamente del centrocampo, la Juventus vale gli altri grandi d'Europa. Assolutamente. Torna da quel posto lì. Ci sentiamo domani. Ciao. All night long, grandissimo Piantanino. Ciao, non mi deludi mai. Ciao. Benvenuti alla nuova puntata di Buon Appetito. Ci troviamo all'interno di uno degli alberghi più prestigiosi della città di Brescia. Tra pochi istanti daremo inizio a una nuova puntata con un ospite molto particolare. Scoprite con noi tra poco dopo la sigla. Buonasera, buonasera Balotelli, benvenuto all'Hotel Vittoria. Tu non sei molto abile di cucina. No, io non ho mai cucinato. Posso provare. Quindi, l'avevi già fatto tu questa cosa qui, avevi già aiutato in casa oppure... No. Mai successo, ma neanche da piccolino? No, perché mia mamma è talmente brava che non mi serve niente. Mario è già abituato a rompere le uova. Va bene, va bene. Cazzo, anche se tu che rompi le uova, non io. Ecco. Quella schizzato. Tutto vero, eh? Mario Balotelli a Buon Appetito, trasmissione andata in onda sulla emittente locale bresciana Teletutto, alla fine ha cucinato, insomma, casoncelli e frittata di bagos, piatti tipici bresciani, della serie nessuno ve l'ha chiesto ma io ve lo dico lo stesso così voi vi arrabbiate. 800 24 00 24, perché ne so un'altra che è questa. Fronte internazionale, Arsène Wenger, allenatore dell'Arsenal, si è arrabbiato come una bestia con Flamini, ex giocatore del Milan. Perché? Perché per una consuetudine all'Arsenal il capitano decide se si gioca con la maglietta con le maniche lunghe o con quella con le maniche corte. E tutti obbediscono. Flamini sono già due volte che prende la maglietta con le maniche lunghe e si mozza le maniche. E Wenger si è arrabbiato e ha fatto benissimo. C'è poi un altro retroscena, sempre in casa Milan, sull'infortunio a Mexes, che ha problemi a un occhio. Pare che il motivo dello stop sia stato determinato da un eccesso di uso di lampados, cioè di lampade abbronzanti. Mexes voleva presentarsi tutto bello scuro al vernissage della Fondazione Milan, ha esagerato con le lampade, gli è venuta sta congiuntivite e quindi ciao. 800 24 00 24, numero verde, sapevo io che gli ascoltatori si arrabbiavano, ma li faremo arrabbiare molto di più, lo prometto, nelle prossime puntate, nei prossimi mesi, nei prossimi secoli. Eugenio da Imperia, buongiorno. Ciao, senti, vuoi dirti una cosa? No, dimmene due. Esattamente, due. Io sono un tifoso interista, no? Ma volevo farti una domanda. Io vedo giocare sia Messi che Ronaldo. Ma se Balotelli è un campione, questi chi sono? Scusa, io non ho capito. Cioè, tutti fanno, ma questo non lo so. Vediamo quanti palloni d'oro vince. Cioè, Messi e Ronaldo chi sono allora? Questo a 23 anni non ha ancora dimostrato niente. Sì, dimostra che gli altri lo istigano tutto un ragazzo giovane, però. Cioè, con quello che guadagna, cioè, no, aspetta, guadagna... non faccio confusione. Quello che guadagna esattamente tanto, bravo, non c'entra niente. Guadagna come Cambiasso. Ho fatto tante volte questo paragone. 4,5 sono tantissimi, sono una montagna di soldi. Però i soldi, il capitolo soldi, lo lascerei stare. Allora, non sono nemmeno tanto d'accordo sull'aggettivo giovane, perché a 23 anni, se sei un giocatore di calcio, sei un giocatore di calcio, non sei neanche più giovane, ok? O no? Lo rispetto è tutto come ragazzi, però campione, magari poi io non capisco poco di calcio. No, ma è chiaro che paragonato a Cristiano Ronaldo e Messi non sta nemmeno nello stesso campo, cioè quelli sono fenomeni assoluti, sono fuori classe, consacrati assolutamente, non solo dai premi, sono giocatori, sono i giocatori più forti del mondo in questo momento. Ci metterei nel consesso di attaccanti anche Ibrahimovic per gusti personali, però sono Ribéry certamente. Balotelli è uno che ha un talento secondo me sconfinato, è un giocatore estremamente fragile caratterialmente e probabilmente questa fragilità è l'ostacolo più grande sulla via dell'essere davvero un fuoriclasse assoluto, cosa che ancora non è. Io la vedo così. Alberto, provincia di Monza Brianza. Parlo, grazie della convocazione. Aspetta a dirmi grazie, perché adesso mi devi pronosticare Leverkusen Manchester United. Manchester United 2 Leverkusen 0 0-2 e attenzione, attenzione, Shakhtar Real Sociedad. Porca miseria, questa chi le dirà? Questa chi le dirà? Se non mica te la facevo, eh. Se facciamo, ne erano facciamo un 1-1 secondo me. 1-1 serve a nulla ad entrambe perché lo Shakhtar ha 5 punti, Real Sociedad ne ha 1 ed è già escluso. Quindi saranno lì a pirlarsela tra di loro centrocampo finché Segna lo Shakhtar, e sono tutti contenti. Ecco. Probabilmente sì, probabilmente. Dimmi Alberto. Allora, avete trattato già l'argomento, va benissimo. Allora, due cose rapidissime. Non perdetevi se riuscite a rivedervi il gol di Balotelli commentato da Crudeli ieri sera. Calavoltachino gli è venuto lo scioppone per miracolo. Porca miseria, adesso lo cerchiamo. Ha cominciato a gridare per lo studio, chiedete scusa Mario. Ma quale scusa? Ma facciamo i bravi. Era esilerante ieri no, sera. No, ma che abbia fatto ridere, sono d'accordo, non faccio fatica a credere, ma chiedete scusa a chi? Cioè, guardatelo perché è forte. È piuttosto poi Mario che deve chiedere scusa per quell'orrenda fila di partite che ha messo insieme nel recente passato. Quindi, e poi scusatemi se forse mi sono io sono un papà, quindi ho delle figlie grandi o meno qualcosa, i figli che andiamo allo stadio ogni tanto e tutto. Beh, ma avete visto quando ha segnato Kakà che volto gioioso che aveva? Ma certo. Mi sembrava il Van Basten del secondo periodo dopo il primo. Ma è bellissimo, guarda, vedere giocare Kakà in questo momento è una delle cose più belle, più rigeneranti, più emozionanti che ci siano. Primo perché io stesso pensavo fosse un giocatore molto più vicino alla fine di quanto in realtà non sia. Secondo perché è un giocatore che adoro, ma come adorano tutti quelli che seguono il calcio, perché la maglia in questo caso non conta, è un campione trasversale. E terzo perché mi piacerebbe un mondo vederlo giocare un mondiale in Brasile. Faccio il tifo per Kakà, ebbene sì. Attenzione Mira, Balotelli, gol! Fratello, chiedete scusa a Balotelli, chiedete scusa a Balotelli. L'avevamo promessa all'ascoltatore di prima, no? Io non chiederei scusa a nessuno per principio, così. Balotelli ha fatto sto gol e bueno, terzo gol, quello meno importante, se non per magari ridare fiducia a questo giocatore che, ripeto, l'impressione giochi con molta paura dissimulata dietro quel ghigno da cattivo ragazzo. Dunque c'è chi scrive: Balotelli guadagna meno di Llorente, che oltre a segnare al Livorno non sa fare, lascia stare Cambiasso che è l'unico giocatore in Italia ad aver fatto le triplete. La tua Juve se lo sogna, ciao Piero da Perugia. Idee un po' confuse, innanzitutto sulle mie preferenze calcistiche, non sono quelle, ma questo non conta. Più che altro sul fatto che si guarda molto troppo al passato, quello è un contratto secondo me fuori mercato, al di là di quello che Cambiasso ha fatto nella sua carriera e per l'Inter, ci mancherebbe altro. Quanto agli Llorente invece è un giocatore che sta facendo molto bene, basta farli giocare e questi qualcosa, quelli bravi qualcosa combinano. Enzo da Napoli. Pronto, mi sente? Sì che la sento. Ciao, buonasera. Devo dirle, che se pensa di Benitez del nuovo modulo del Napoli quest'anno, che secondo me è sbagliato sia per gli elementi che ci abbiamo in campo, sia per il modo di farlo, quel tipo di schema. Cioè? Il 4-2-3-1 le sembra troppo offensivo? Troppo offensivo per i giocatori che abbiamo, anche insomma cambiarlo in qualche partita potrebbe essere cambiato tranquillamente, invece di essere sempre così integralista e fare sempre lo stesso modulo. No, io non sono d'accordo perché questo è il marchio di fabbrica di Benitez, allenatore europeista, allenatore che molto ha raccolto appunto in giro per l'Europa, è un modulo che conosce molto bene, è un Napoli molto divertente quando sa esserlo, quando è in condizione, non mi sembra particolarmente in condizione, certo è che, mi sono d'accordo con Pardo, ahimè la difesa del Napoli probabilmente non è a livello di reggere la pressione di un modulo estremamente spregiudicato come questo. Poi c'è Higuain, che è comunque sempre una certezza. Quelli che gli girano intorno dipende dalla giornata, lo stesso Insigne, lo stesso Callejon, che è un giocatore capace di gol straordinari, così come di assenze ingiustificate, e ieri è stato onestamente assente ingiustificato in una partita importante. Piuttosto il Napoli probabilmente non è ancora maturo per giocare con questa aria così spregiudicata le grandi partite, le partite contro le grandi avversarie. Basta andare a leggere i risultati, i gol subiti e soprattutto i punti presi in Europa e in Italia con grandi avversarie, cioè gol molti, ora non ricordo quanti, ma a occhio e croce 3-3-6-2-8-2-10, punti presi 0. Allora sentiamo invece cosa ha detto Benitez ieri dopo Dortmund. Sì, chiaramente il rigore cambia tutto. Noi parliamo prima del carattere della squadra, dell'intensità, della voglia di vincere, e tutto questo l'abbiamo visto. Ripeto un'altra volta che la squadra mi è piaciuto in termini di carattere, di atteggiamento, di tutto quello che ha fatto. Preferisco giocare una partita così che non con 11 giocatori dietro la palla e dire proviamo a pareggiare con 11 e difesa. Credo che la squadra doveva attaccare, lo ha fatto con qualche errore. Molto chiaro il credo di Benitez, quasi una risposta al nostro ascoltatore. Lui crede in questa mission, crede in questa squadra, crede nella possibilità di crescere. Vedremo quando quell'asticella del benedetto 75% verrà alzata dall'allenatore spagnolo. Probabilmente il Napoli non è ancora strutturalmente pronto per reggere questo modulo così offensivo. Servono almeno un paio di giocatori, e serve che Hamsik, viva Dio, cominci a giocare da grande giocatore. Ieri non c'era, però è sempre stato deludente. Questo è un refrain delle ultime stagioni: è sempre stato molto deludente Hamsik nelle grandi partite, anche in momenti in cui era dato in ottime condizioni. Non vorrei che fosse un difetto strutturale di questo giocatore che a me piace moltissimo. Paolo da Verona, buongiorno. Buongiorno a lei. Non ho più pronostici da farle fare, li ho fatti tutti. Prego? No, prima facevo fare pronostici a tutti, così almeno io mi trincero dietro il no comment, sì, e non mi sgridano domani. Vabbè, dai, torniamo sul girone della Juve. Cosa fa la Juventus stasera? Spererei che le prendesse, ma vincerà. Spererebbe che le prendesse, ma vincerà. Quanto? Vincerà 2-0. 2-0, c'è chi dice... Da 2-0 in su, qualcuno prima ha detto stasera a Torino nevica, poi ho ricevuto un sacco di messaggi, ma che neve, a Torino c'è un sole che sembrano i Caraibi. Vabbè, notazioni meteo. Mentre l'altra partita del girone è Real Madrid-Galatasaray, questa come la vede? Forse qua ci scappa il biscotto, anche se giocano al Bernabeu, che è un po' difficile. Se giocassero a Istanbul, secondo me farebbero un biscottino per lasciare fuori la Juve. Questo potrebbe, noi malpensanti potremmo anche pensare a questo. Io invece non credo che a Madrid Ancelotti sia nelle condizioni di... No, perché sennò gli fanno la pagnolata. Bravo, esatto. A Madrid no. Esatto. Ma forse un pareggio, 2-2. Un pareggio con gol e tutti contenti, la Juve meno, e la prospettiva di andare a giocare a Istanbul contro Drogba, Schneider e compagnia, la qualificazione, non una bellissima situazione. Voleva dire altro? Esatto. Sì, no, io volevo intervenire in merito alla deriva societaria del Milan. Sì. Perché sappiamo tutto cosa è successo, ma il perché non l'ha spiegato nessuno. Allora, premesso che Marina e Pier Silvio sono dalla parte di Allegri. Perché? Quindi... Che lei ci sta spiegando, perché lei lo sa. No, perché questo si sente dire dappertutto. Perché? Perché Allegri, su input di Galliani, Allegri ha portato in porto il pareggio di bilancio, o il quasi pareggio di bilancio, quindi la Fininvest non può essere che contenta di questo. Dato questo per vero, come può Berlusconi buttare a mare Galliani, amico, socio in Rete Italia, eccetera, eccetera, sì, sì, per i capricci di barbara, a meno che non ci siano discorsi di eredità o cose di questo genere. Cioè, io riesco a farne una ragione. Se lei mi può illuminare, gliene sarò grato. Io non posso illuminarla, mi spiace Paolo, non riesco ad illuminarla su questioni ereditarie, non saprei cosa dire. Come ho detto ieri e continuo a pensare, questa ora il cambiamento societario poteva anche essere legittimo, avere un senso, no? Per andare dove non si sa benissimo. Quello che mi lascia molto perplesso è stato il modo intempestivo e molto violento, se vogliamo, in cui questo cambiamento si è consumato. Ora, la vittoria di ieri sera ha rimesso, ha ridato qualche giorno, qualche tempo di pace al Milan, ma credo che i venti pericolosi torneranno presto a soffiare. Non si sa bene dove vada questa società. Mi rifiuto anche di pensare che Barbara Berlusconi abbia fatto tutto di testa sua e si sia svegliata una mattina dicendo: ok, cambiamo tutto, la dirigenza che c'è ora non funziona più. Mario, Firenze, buongiorno. Ciao, come stai? Benissimo. Sai che Zambrotta è il nuovo allenatore del Chiasso, mi comunicano. Chi se ne frega? Chi se ne frega? No, a me mi interessa, a me, siccome ho un po' di capelli bianchi mi incominciano, mi interessa quello che succede nel campo, il resto poi sono tutte cose di contorno. Sì. Balotelli, come Cassano, come tanti altri, hanno il dono che il nostro Signore gli ha dato, ma non hanno il cervello. E di giocatori in questa maniera ce ne sarà sempre qualcuno tutti gli anni, no? Chi più o chi meno. Ok. Ora, parlando della Juventus, che mi interessa, dico che stasera non c'è problemi, però ci tocca andare a giocarsela là, da turchi. Da e turchi. Penso che lì sia veramente un dramma, perché qualche giocatore della Juventus ancora non ha la capacità di capire che se non si vince la Champions, il campionato ci si frigge quest'anno. Sì, ma vincere la Champions lei mi ha facile. No, io penso non abbiamo le possibilità per vincere, ci mancano 4 giocatori. Però l'importante è dici... che non diano via... L'importante è che non diano via questi due giocatori buoni, sa. L'importante è passare questo girone, se no sarebbe una disfatta, sono convinto una disfatta. Penso anch'io, perché questo è un girone da passare. D'altra parte, Mario, certe volte il calcio sa anche essere giusto. Se tu non batti stasera a Copenaghen, ok, e poi no, non vai da fuori, hai ragione. Meriti da star fuori, no? E non vai a fare risultato. Allora poi si raccolgono i cocci. Io spero e credo anche onestamente che la Juventus ce la possa fare. Mi auguro che la Juventus ce la possa fare, però se sta fuori in questo girone, allora sarebbe giusto fare due conti, perché quello che credo sia il primo obiettivo stagionale dei bianconeri, non la vittoria finale, ma fare tanta strada, essere competitivi, dimostrare di essere competitivi in Champions League, sì, ecco allora che il primo obiettivo stagionale potrebbe svaporare. Beh, domani ne parliamo, che dite? Franco Piantanida in redazione, Roberto Scaltritti in regia, domani tutti convocati alle 2 qui. Merci. Ma cosa mi dici mai? Let's discuss with the management. Ma cosa mi dici mai?